Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La pietà non va confusa neppure con la compassione che proviamo per gli animali che vivono con noi. Accade infatti che a volte si provi questo sentimento verso gli animali e si rimanga indifferenti davanti alle sofferenze dei fratelli. Ma quante volte vediamo gente tanto attaccata ai gatti, ai cani, e poi lasciano senza aiutare la fame del vicino, la vicina. D'accordo? Certo, c'è un paradosso che ancora nessuno ha mai sottolineato. Pensare che il Papa precedente, che ancora è Papa a tutti gli effetti e sta lì praticamente dietro al Papa attuale, era un Papa gattaro, era un Papa che viveva per i gatti, che quando era già stato fatto Papa si diceva che tornasse nottetempo a dar da mangiare ai suoi gatti, insomma era circondato dai gatti, era un signore, diciamo, che aveva un rapporto molto particolare con i gatti. Ma se il Papa, non lo faccio perché adesso è diventata una trasmissione papalina questa, che venerdì ho parlato del Papa, oggi riparlo del Papa, ma casualmente porge il destro a una riflessione di senso generale che oggi faccio molto volentieri. Dicevo, se il Papa ha avuto la necessità, sentito la necessità di rifare un punto rispetto a quello che viene chiamato in senso lato l'amore per gli animali, evidentemente c'è una deriva forte nell'umanità che vale la pena di osservare e di valutare. Non ho posizioni in merito, anzi sono molto laico, mi piace scherzare e motteggiare molte volte quelle che sono le esagerazioni gattare. Ad esempio, mi fa sorridere che qualcuno abbia denunciato le Poste Italiane perché hanno fatto uno spot che reclamizza un loro prodotto a favore delle famiglie italiane, e come asse portante c'è l'incapacità maschile di muoversi in cucina, di saper cucinare. Si inizia come da bambini, facciamo le tortine con la sabbia, ci arrabattavamo a cucinare. A un certo punto, nella fase della preadolescenza, vedere un bambino di 11 anni che insegue con una padella in mano, messo nell'altra, un povero gatto spaventato che scappa via, ma nelle zampette c'è quei cartoccini con i fiocchetti che si mettono sotto ai capponi quando si mettono in padella. E vuole far vedere, c'è una fase della vita in cui uno pensa che si può mangiare i gatti. Naturalmente questo oggi suona come una bestemmia delle più bestemmiose. Nemmeno sul Papa si potrebbe scherzare senza rischiare nulla, come se non si può scherzare sui gatti. Questo infatti ha causato bestemmia, questo spot viene considerato una sorta di istigazione a cucinare gatti, o peggio ancora della violenza contro i gatti, via dicendo. Il gatto è diventato, nelle categorie degli esseri viventi, una delle categorie su cui si possa meno scherzare. Ma se si scherza sui gatti si rischia comunque di incorrere nei rigori delle persone che ormai considerano gli animali come esseri talmente indifesi e talmente vittime della crudeltà del genere umano che meritano una particolare salvaguardia. 800240024. Voi da che parte state? Siete quelli che dicono che gli animali sono meglio degli uomini, o quelli che, pur avendo rispetto, affetto, simpatia per gli animali, dice sì, però gli animali restano animali e noi siamo esseri umani? È un punto di vista, non è che questo corrisponde a una presa di posizione veemente su quelle che sono le visioni della vita. Statevene tranquilli che ci divertiamo. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. La pietà non va confusa neppure con la compassione che proviamo per gli animali. Ancora con il Papa, avete già mandato prima, un bipapa è troppo, devo dire la sincera verità, però è stato chiaro, il Papa ha fatto una dichiarazione, è stata ripresa da tutti, è stata considerata come una presa netta di posizione teologica nei confronti della definizione di rango fra essere umano e essere appartenente al genere animale senza essere umano, perché anche noi apparteniamo al genere animale in qualche maniera, nasciamo a quattro zampe, è inutile che di questo ci facciamo un problema. Siamo animali, sono particolarmente evoluti, hanno acquisito una loro capacità di pensiero, di autonomia nel grande cammino dell'evoluzione, e noi siamo animali molto più evoluti degli altri, almeno evoluti nel senso che abbiamo avuto capacità, possibilità o limite dannoso di modificare anche l'ambiente fortemente attorno a noi, altri diranno stiamo distruggendo il nostro pianeta. Ecco, in questo è indubbio dire che negli ultimi decenni, ma soprattutto negli ultimi anni, oggi la passione per gli animali, che era semplicemente considerata una delle tante maniere per passare il tempo libero, per distribuire le proprie potenzialità affettive, è diventata qualcosa che appartiene ormai a una vera e propria ideologia. Oggi, diciamo, la considerazione dell'animale come essere senziente, ancora più che considerandolo per le singole categorie degli animali, mi piacciono i gatti, a me piacciono i cani quando ero bambino, avevo tanti cani, altri piacciono gli uccellini, agli altri gli piacciono altri animali da compagnia, altri sono appassionati di cavalli e fanno equitazione, sì, però questa è una cosa diversa. I veri appassionati radicalmente considerano gli animali esseri senzienti, mai vorrebbero sfruttare gli animali, quindi gli piacciono i cavalli ma mai monterebbero sopra un cavallo, che già è considerato uno sfruttamento di animale. Gli piacciono i gattini, ma ai gattini non danno da bere il latte, perché il latte a sua volta, nelle forme più estreme dico, perché il latte a sua volta è prendere del latte e lo sfruttare un animale. Poi in forme più immediate esiste l'amore sviscerato per gli animali, quelli che hanno cani, gatti, si prodigano, fanno raccolte di soldi, vogliono salvare gli animali dai canili, insomma c'è un universo molto variegato, a volte anche in antitesi tra di loro, in cui si dimostra che oggi una parte dell'umanità ha trovato una compensazione molto forte nell'affetto verso gli animali, compensazione che va a riempire dei vuoti nelle relazioni con gli esseri umani. Massimo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Io premetto che non sono un animalista né... Vabbè, ma ognuno è quello che vuole, non è un problema. Un vegano, eccetera. Vabbè. No, a me sembra un autogol del Papa, perché il rapporto fra amore per il prossimo e amore per gli animali non interferisce l'uno con l'altro, uno non toglie nulla all'altro, insomma sono su piani nettamente... Ma autogol perché? Per questo perde fedeli dicendo questa cosa qua? Cioè tutte le gattare e gli animalisti diranno basta, cambio religione? No, sicuramente no, però insomma a me sembra una banalità, insomma, ecco, questo volevo dire. Banalità, ha detto attenzione, dice di guardarvi intorno, dice è bene sì occuparvi tanto dei vostri animali, ma guardate, ci sono anche esseri umani che hanno dei motivi di attenzione e sofferenza molto alti, che molte volte è facile, perché il gattino gli dai da mangiare, lo curi, lo coccoli, ti guarda e fa le fusa e ti senti soddisfatto nel tuo rapporto affettivo. L'essere macilento che è fuori dalla porta puzza, fa cattivo odore, magari è sgradevole, è più difficile avere una pietas verso esseri umani che sono in condizioni disagevoli, questo ovviamente dice. Ottavio, buongiorno. Buongiorno. E anche io vorrei dire la mia sui cani, sono un amante di cani, li ho sempre avuti, e bisogna avere un po' rispetto per gli animali, perché le persone che normalmente amano gli animali amano anche le persone. Nel mio caso io rispetto l'essere umano come rispetto i cani. Beh, i cani parla per sé, non è in assoluto un dato assoluto. No, non è un dato, io parlo per me. Normalmente dico chi ama gli animali, normalmente anche la persona è rivolta verso il prossimo. Quindi poi se noi utilizziamo i cani per i salvataggi, per i terremoti, per le ricerche delle persone, questi animali vanno tutelati, fanno parte della nostra vita ormai, sono connaturati all'uomo, specialmente i cani ormai da millenni fanno parte di noi, quindi vanno rispettati. È chiaro che anche il vicino, il prossimo va rispettato e tenuto di conto. Vabbè, lei diceva in una posizione equanime, lei diceva le due cose non vanno a collidere. No, per l'amor del cielo, anzi si completano, le due cose si completano, quindi si compensano. Non vedo differenza. Normalmente questo Papa non è che uno parla vuoto o non pensa prima di parlare, se l'ha detto evidentemente aveva dei buoni motivi per pensare che dal suo punto di vista è importante cominciare a mettere dei primi paletti su questa vicenda. Claudio. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Le racconto questo. Io per anni ho avuto l'incubo delle feste comandate dalla sorella di mio padre, perché questi signori, mio zio, avevano 8 gatti e 2 cani, che secondo loro era una cosa buona e giusta far partecipare al pranzo, quindi comunque mentre tu mangiavi non dovevi rompere le scatole se il cane ti rompevano mentre tu mangiavi, o addirittura i gatti da terra zompavano sul tuo piatto perché volevano partecipare. Una cosa, guardi, allucinante. Io per anni mi sono rifiutato di andare da loro, voglio bene a questa gente, però veramente. Diciamo, avevano delle abitudini familiari di promiscuità con gli animali che sono rispettabili, ognuno fa quello che vuole a casa sua, ma quando invita ospiti non a tutti fa piacere il cagnone che ti biascica sotto, il gatto ti salta sul piatto. Lei dice: a me questa cosa dava fastidio, ma è lecito da parte sua provare fastidio per questo, lecito da parte sua zia a casa sua fare quello che vuole. Rosita Celentano, buongiorno. Buongiorno. Allora, Rosita Celentano, ricordo che conduttrice insieme ad Angelo Vaira di Chiedimi se sono felice, che è in onda su Radio 24 la domenica alle 12, è un programma di grande successo della nostra radio che parla proprio di questa spassionata passione per gli animali, è un controsenso. Rosita Celentano, oggi ti ho chiamato qui proprio di essere la rappresentante di quel mondo di appassionati degli animali a cui penso si riferisse il Papa. Devi andare a cercare le mezze misure. Tu sei di quelle persone che dice: sono molto felice, contenta di avere amici animali, anzi, mi sembra, ti ho detto in un'intervista, avrei preferito nascere animale piuttosto che nascere essere umano. Sì, per come provocazione sì, diciamo che sono un animale, perché anche ma lo siamo, ti ricordo che lo siamo, noi siamo tutti animali, ci siamo evoluti diversamente rispetto ai gatti cani, ma siamo animali, nasciamo tutti dallo stesso protozoo, quindi animali siamo. Esatto. Ecco, tu come la vedi questa presa di posizione del Papa? Perché ha sentito la necessità, una persona così attenta, così misurata, così anche molto, molto diciamo capace di dire le parole giuste al momento giusto, facendo questa dichiarazione si è chiaramente beccato una levata di scudi da parte di una parte importante dell'umanità, che oggi ha anche un grosso peso anche nell'informazione, sono quelli che, vedi, sono indignati, come, perché il Papa ci dice questo? Qual è il problema? Io credo che quello che ha detto il Papa, se si riferisce a osservare persone che magari vezzeggiano troppo il loro animaletto a casa, però poi non si occupa nei fatti delle sofferenze delle persone, degli esseri umani, credo che lui si rivolgesse a questo tipo di atteggiamento verso gli animali, mi auguro, anche perché se non fosse così, sai, cioè, sarebbe importante che Papa Francesco riuscisse veramente a capire le sofferenze a cui sono esposti gli animali a causa degli esseri umani, prima di tutto. Altra cosa è il fatto che la formazione cristiana di un essere umano diventa mancante se non ha la sensibilità e la compassione per un animale, perché fra parentesi, come ci insegna San Francesco, è proprio tale formazione che è agevolata dall'amore per gli animali che crea un uomo compassionevole e attento ai bisogni di tutti gli esseri viventi. L'animale non ostacola il fatto di essere attenti. Vedi, vero, Rosita, io penso, difficile poi fare interpretazioni, il Papa l'ha buttata lì e a buon intenditor poche parole. Da un certo punto di vista sì, penso che lui dicesse attenzione, come se ognuno di noi avesse una sorta di deposito di compassione limitato, dice, se lo usate tutto per gli animali non vi accorgete degli umani che hanno intorno. Però guarda, io ti dico anche un'altra cosa, ci sono studi scientifici che ci dicono che la violenza sugli animali in realtà è predittiva delle violenze su esseri umani. Ah, questo, cioè, questo è sicuro. La violenza chiama violenza come l'amore chiama amore. Quindi, qualunque violenza gratuita, una persona che fa del male all'animale a qualcosa che non va gratuitamente, no, non ma c'è nessun senso. Che addirittura anche in Italia l'EMPA ha fatto un esposto molto importante su questo, è tutto uno studio, l'FBI in America tiene in considerazione quelli che vengono denunciati e condannati per violenza e aggressività sugli animali, proprio perché c'è proprio una connessione forte su quello che poi possono essere le future, purtroppo, violenze domestiche. Ma certo, se uno già da bambino... L'animale dovrebbe essere, come si dice, il rapporto di un uomo con un animale dovrebbe essere un termometro fondamentale per capire l'animo umano. Sì, perché però posso dirti una cosa, scusa Rosita se ti interrompo. Sì. Sono d'accordo dal punto di vista della violenza, totalmente. Una persona che gratuitamente fa del male agli animali è una persona che non ha più il concetto della sofferenza altrui, di un essere senziente. Non so se la stessa cosa può essere girata anche dal punto di vista dell'amore. Una persona che ama spassionatamente gli animali, non sono estremamente convinto sia una persona che allo stesso modo è capace di gesti di altruismo nei confronti degli esseri umani. Però ti posso dare il tempo di riflettere su questa risposta? Un minuto solo, che do la linea alle informazioni della borsa e poi su questo riprendiamo fra un istante. Melog. Cronache meridiane. Ti vergogni? Lo vuoi il biscotto? Ah? Lo vuoi il biscotto? Lo vuoi? Chi è mamma? E perché ti vergogni? Mamma. Perché ti vergogni? Mamma. Ti vergogni? Dai, lo vuoi il biscotto? Mi stai chiedendo scusa? Mi stai chiedendo scusa? No, non funziona così. Non funziona proprio. Non funziona così. No. No. Stai sbagliando. Questo è un blob preso da YouTube di esseri umani che parlano con gli animali, probabilmente confidando che il loro linguaggio sia compreso anche oltre quello che è la comprensione animale, e si fanno loro stessi interpreti di un linguaggio tromani animale che si inventano loro. Mi rendo conto che in questo momento è molto difficile parlare di questi argomenti senza scadere nell'ideologia o nel settarismo. C'è chi mi sta accusando in questo momento: vuoi insegnare al Papa la dottrina? No, semplicemente il Papa ha fatto un'affermazione e su questa affermazione voglio ragionare. Non è un'affermazione neutra, non facciamo finta, non prendiamoci in giro, non è che ha detto semplicemente voletevi bene a tutti, ha detto attenzione che una troppa attenzione per il mondo degli animali vi distoglie dall'attenzione, dalla pietà verso il mondo animale. Questo non dice nulla, è un motivo di discussione. Ne voglio citare le solite banalità: Hitler era vegetariano, quindi non è vero che i vegetariani sono più buoni. Sono tutti luoghi comuni. È indubbio che in questo momento nell'umanità si è creata una sorta di, non voglio dire nuova religione, ma nuova visione della vita globale, che pone gli animali in un rango diverso rispetto a quelli che tradizionalmente erano posti. Di questa posizione oggi, questa mattina, ho chiamato Rosita Celentano, che mi sembra una pubblica rappresentante, senza mezzi termini, senza nascondersi, senza ipocrisie. Allora Rosita, la domanda ti ho fatto prima: sei convinta anche tu che chi ami gli animali poi sia più aperto verso un atteggiamento di comprensione e condivisione con il genere umano? Io non sono molto convinto di questo. No, io non solo ne sono convinta, ma io ti parlo anche oramai di tante ricerche fatte, quindi qui non si tratta più di avere un'opinione diversa uno dall'altro, si tratta di approfondire l'argomento e vedere che ci sono ricerche addirittura che arrivano dagli Stati Uniti, dove è stato dimostrato che chi vive con un animale sviluppa un'intelligenza sociale e una compassione maggiore di chi non vive con un animale. Senza contare tutto quello che l'animale poi può fare anche a livello proprio di oltre che di crescita compassionevole, di crescita psicologica. La pet therapy si fa per i bambini autistici. Beh, no, su questo argomento no, permetti. Avendo un figlio autistico, solo un distinguo voglio fare, poi ragioniamo. Quando si parla di ricerca scientifica, la ricerca scientifica è solo quella che ha evidenze scientifiche. Le evidenze scientifiche sono un sistema di prova che tutta la comunità scientifica dice una cosa: la pet therapy non ha nessuna rilevanza scientifica. Gli autistici non si curano con gli animali. Scusa, devo dirlo questo perché... Non c'è evidenza scientifica. Su questo no. Parliamo, diciamo, parla di quello che pensi te, il tuo punto di vista. Se parliamo di scienza, devo parlare di scienziati. Non siamo noi e te scienziati, capito? No, finisce come Red Ronnie che parla dei vaccini in televisione. Rifaccio la stessa cosa. Non ti voglio far parlare di ricerca. Allora, ascolta, parlami di quello che pensi te, perché la scienza è un'altra cosa, scusa. Ma quello che penso io è quello che... Non c'è bisogno che cerchi però puntelli scientifici. La parola scientifica, però, scusami, volevo aprire e chiudere una parentesi. Non è vero che Hitler era vegetariano, perché questa è una leggenda metropolitana, basta fare due ricerche e Non ci cambia niente. Si dice spesso come portare esempio... L'ho detto, luogo comune, ma sono tanti luoghi comuni. Mi interessa come la pensi te, capito? Non mi interessa le prove. Io questo penso, cioè quello che ti stavo dicendo prima, il punto non è che se tu ami troppo un animale in casa tua e vezzeggi un animale, poi non sei compassionevole con le persone, perché non è quello, cioè il problema di un essere umano che non è compassionevole con un essere umano non è la colpa dell'animale. No, ecco, questo è un punto di vista che ci sono dati. Ma non parlare di dati, parla di te, dai. Quello che penso io... Ma oggi mi interessa il tuo pensiero. Ma sì, ma sai, i dati... Possiamo confutare i dati fino a domani. Mi interessa avere un'esperienza personale, umana, di una persona che fa delle scelte emotive molto forti, che arriva a dire: per me gli animali ho un rapporto, voglio capirlo, siccome è una dimensione, io sono nato in campagna, sono vissuto insieme agli animali e tutto, non ho questo tipo di pietas generale per gli animali. Sì, non farei mai male gratuitamente all'animale, però se ho fame e mangio un animale lo trovo per me normale, ma non voglio nemmeno dirti questo, voglio capire cosa sta cambiando nell'emotività generale rispetto a una visione nuova, diversa di concepire gli animali come qualcosa di più rispetto a delle degli esseri senzienti che abbiamo vicino, ci fanno compagnia, ma no, e facciamo le carezze. Ma non è qualcosa di più o qualcosa di meno, è non considerare l'uomo al centro, che deve fare l'uso e il consumo che vuole di tutto quello che lo circonda, a partire dall'ecosistema agli animali. Cioè, noi facciamo parte tutti di uno stesso disegno, siamo tutti collegati. Non è che se tu tratti male un animale l'uomo poi vive meglio. Cioè, avere compassione per un animale sviluppa una compassione tale che quando tu vedi una persona in difficoltà non ti viene istintivo. Cioè, se tu sei una persona sensibile verso i bisogni di un essere umano, lo sei a 360 gradi, non fai lo specismo, non fai una differenza. Beh, vedo un cane che sta male, chi se ne frega, tanto è un cane, non è un essere umano. Ma no, ma chi se ne frega, una persona normale non lo dice. Se vede un cane ammalato cerca di darsi da fare, lo porta da un veterinario, se lo vede ferito per strada. Penso che questo rientri nel banale comportamento di persone normalmente sensibili. Ma chi è che può rimanere indifferente di fronte a qualcuno che soffre, sia uomo o animale? Questo è diverso, però noi arriviamo a forme molte volte paradossali, si arriva a degli atti di aggressività verso gli esseri umani perché non condividono questa sorta di visione, che è una visione che mi dai atto che assomiglia molto più a una visione globale, quasi una religione è diventata oggi l'animalismo, più che occuparsi di un animale, avere un animale da compagnia. Ma no, non è questione di religione, però ti posso dire, allora io 3 anni a tutti fa sono diventata vegetariana tendente al veganesimo, ma quel punto mio è non convincere, io non voglio convincere nessuno a non mangiare la carne, però voglio fare informazione, perché mentre una volta i nostri trisavoli mangiavano un maiale, però il maiale viveva libero nel prato e faceva una vita dignitosa, ora per il consumismo gli animali non fanno una vita dignitosa, quindi c'è un danno fatto all'essere vivente, ma in più trattato in un modo tale dove tanto poi ci ritorna tutto, perché quell'animale non è sano e noi mangiamo qualcosa che non è sano. E questo è il punto, il fatto di non capire che si è tutti collegati. E poi sai qual è il punto? Che bisogna decidere oggi se stare dalla parte della soluzione o stare dalla parte del problema. Quindi decidere di avere attenzione e compassione per gli altri esseri viventi, gli animali, di cui facciamo parte anche noi, è volersi mettere da una parte di ecologia per salvare il mondo, perché poi non ci dobbiamo sorprendere se l'Italia sta diventando un paese col clima tropicale. Fermo un attimo, mandiamo qualche telefonata, prendi un attimo fiato, sentiamo anche qualche altra telefonata. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Va bene, tante cose l'ha detto la signora che condivido pienamente. A questo punto aggiungerei che quando una persona così importante fa delle affermazioni anche così importanti, ci sono poi delle conseguenze logiche, delle ricadute nel mondo reale. Cioè, che succede? Queste ricadute potrebbero essere che io come cattolico sono superiore a un animale, quindi, che ne so, a Pasqua mi posso mangiare l'agnello, posso sgozzarlo secondo tutti i riti anche musulmani. Abbiamo anche arriva alla conclusione, Antonio. La conclusione, Antonio. Conclusione è questa, è che togliendo gli eccessi... Non mi sembra che sia l'aspetto più importante dell'osservanza di una religione mangiare l'agnello a Pasqua. Nessuno l'obbliga. Quello è una condizione... Ma gente lo mangia perché gli piace, non perché lo dice la religione. Ci poniamo rispetto al mondo che ci circonda. Allora noi siamo... Vabbè Antonio, è troppo complicata, non la sto capendo. Jimmy, buongiorno. Uno deve avere la sintesi, non dite che io taglio l'ascoltore, se non fa capire subito che vuol dire. Jimmy, buongiorno. Jimmy, niente, sì, grunisce. Pronto? Ah, eccolo, dai, Jimmy, che devi dire? Buongiorno. Sì. La gente non ha capito bene il discorso, perché Papa non ha detto di non a volere bene gli animali, ma però rispettare anche i vicini di casa. Va bene, l'avevamo capito questo. Gianni, buongiorno. Vediamo se qualcuno riesce a dire cose. Grazie per aver sollevato questo problema, perché porterà le persone a riflettere attentamente su quello che ha voluto dire il Papa. Ma io non voglio interpretare il Papa, semplicemente semplicemente se il Papa... Arriva al Papa di toccare questo argomento, un argomento evidentemente ha una sua ormai valenza di interesse generale, quindi vogliamo trattarlo. È perfetto quello che lei ha fatto, direi. Io in parte condivido sia le sue opinioni, anche se non sono opinioni, sono oggettivamente delle esposizioni, sia quelle di Rosita Celentano. Ma volevo soltanto dire che per me è corretto che il Papa richiami in questo momento l'attenzione delle persone perché ci sono persone che amano gli animali ma stravedono per gli animali. Io ho 14 gatti, ma non dimentico che la priorità è verso chi ha più bisogno dei miei gatti di attenzione e di sostegno. Quindi lei ha fatto benissimo, perché il Papa credo che abbia voluto dire esattamente questo, e lei, ripeto, ha fatto bene a sollevare questo problema. Allora Gianni, siccome devo dare la linea adesso per la pubblicità, do l'argomento di riflessione per la parte successiva della trasmissione. Se io apro una campagna, e questo è oggettivo perché l'ho anche provato, apro una campagna per i gattini indifesi, per i cuccioletti orfanelli, trovo migliaia immediatamente, soprattutto in rete, di attenzione, di persone che sono pronte e disposte a darmi mezzi, a darmi solidarietà e tutto. Se faccio la stessa cosa per dei poveri straccioni, per qualsiasi categoria dell'umanità che in questo momento non è sotto l'occhio del riflettore ma ha bisogno di aiuto, trovo molta più indifferenza. Vuol dire che emotivamente ormai abbiamo allucinato. Questo non toglie nulla alle convinzioni personali di Rosita Celentano, dei vegani, degli animalisti e via di dicendo. Semplicemente si è spostata l'attenzione, il fulcro della nostra emotività nei confronti della pietas verso altri esseri viventi, si sta spostando dagli umani agli animali. Questa è la mia ipotesi, poi potrete contraddirla o confermarla. Tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Sto toccando un argomento che divide il pubblico. Stranamente è difficile avere posizioni equilibrate, come il nostro ultimo ascoltatore. Mi stanno arrivando messaggi che inveiscono contro quello, con quell'altro punto di vista. Sembra quasi che solo parlare di questa maniera, o non in maniera totalmente elogiativa o in maniera totalmente denigratoria, pone le persone in una ambiguità di espressione. Il mio punto di vista è chiaro, mi fa sorridere quando sento parlare dello psicologo per animali nella trasmissione di Rosita, ma mi diverte ascoltarlo, è una sua posizione, non me ne importa, non mi cambia la vita sinceramente. Ma dallo stesso punto di vista non farei mai male gratuitamente un animale. Se vedo un animale ferito per strada, se il tempo me lo permette e me lo consente e posso farlo senza mettere a rischio la mia vita, lo raccolgo e lo porto a qualcuno che se ne occupi. Posso farlo. Se non posso farlo, non me ne sento poi in fondo un peso alla coscienza, come potrei fare la stessa cosa lasciando, che ne so, un essere umano che trovo ferito per un incidente stradale, faccio finta di nulla. Per me esiste una distinzione, ma è il mio punto di vista. Questo non è che non accetti i punti di vista altrui. Angelo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Dunque, una breve premessa: io sono amante del genere umano, sono amante degli animali, sono amante delle piante e della natura in generale. Scusa Angelo, vogliamo dirci anche un'altra cosa, se no smettiamo di essere pochi. Che vuol dire amante dell'essere umano? Cioè, nessuno di noi ama l'umanità. Non ci prendiamo per giro. Noi diciamo siamo mediamente attenti al nostro prossimo. Più siamo attenti, certo, più il nostro prossimo ci dà in cambio qualcosa, quindi sono parenti, amici, persone che condividiamo affetto, le vediamo. Più si allontanano e più è come la famosa commedia del mandarino cinese: pigi un pulsante, muore un mandarino cinese, non vedi nulla, in cambio ne hai un vantaggio. Sì. Molti di noi piggerebbero quel pulsante, non ci prendiamo in giro. Andiamo avanti, Angelo. Detto questo, mi sembra che si sia arrivati a qualche eccesso, nel senso che io vedo dalle statistiche che il giro d'affari, che è di diversi miliardi, riguardante la cura e l'alimentazione degli animali, è in continua crescita a una o a due cifre. Non mi risulta la stessa cosa per quanto riguarda l'aiuto ai bisognosi. In più... Angelo, è un'altra cosa. Se io faccio l'imprenditore e è una fetta di mercato che mi dà dei buoni profitti, anch'io faccio gli ossi di plastica, i cappottini, le ciotoline, i giocattoli per animali. È un discorso imprenditoriale, lì non è le persone che li acquistano, non è che aiutano nulla. C'è un mercato che permette agli appassionati animali a comprare i gadget. Luca, su questo siamo d'accordo, però io conosco persone che spendono più per gli animali che per i loro figli, certo, e in più conosco persone che, nonostante siano circondate di animali, abbiano molta attenzione verso di loro, sono, come posso dire, molto molto meno attenti verso il loro prossimo. Caro, io che gestisco un figlio disabile conosco questo problema, te lo posso dire, è vero, è così. Vai a chiedere... minimo aiuto per le persone disabili, ti guardano come si guarda un alieno. Se vai con la ciotola in mano, dici, per dei poveri gattini abbandonati, nessuno ti sbatte la porta in faccia. È così, fa parte dell'umanità, non so che dirti, non me ne do manch'io ragione, però va bene. Detto questo, un'ultimissima velocissima considerazione. Allora, adesso va molto di moda questo discorso dell'attenzione agli animali. Premesso che secondo me non c'era bisogno di arrivare a capire che gli animali siano senzienti per avere attenzione verso di loro, io ce l'avevo anche prima. Finalmente adesso coi mezzi sono riuscito a scoprire che sono senzienti anche loro, bene, dal momento che deriviamo da loro. Però mi risulta che siano arrivati a scoprire che anche le piante siano senzienti. Non so se a questo punto dovremmo cominciare a nutrirci di minerali. La natura si è sempre nutrita di natura e quindi non ci vedo niente di male in tutto questo. Però è una cosa a cui vegetariani e vegani non vi sanno rispondere. Sono problemi che sembrano delle dispute teologiche, come che le si facevano sul sesso degli angeli. Non sono interessato a questo. Rosita Centano, ti faccio una domanda. Se tu hai un gattino, cosa gli dai da mangiare? Il polmone o gli dai da mangiare cose che non hanno a che fare con gli animali? Per capire. Gli do da mangiare quello che necessita un felino, che è forse l'animale oggettivamente più carnivoro. Questa è una risposta, perché questa è una risposta saggia, perché ho fatto trasmissione in cui gente faceva morire i poveri gattini perché non gli voleva dare la carne. Però sai che c'è, che in questi casi uno ha bisogno di casi estremi, delle eccezioni che purtroppo confermano le regole. Io non so chi frequentate, perché tutto quello che è stato detto nell'ultima parte io mi dissocio e non condivido, perché io sono una persona non mediamente attenta al prossimo e non schiaccerà il pulsante per ammazzare un mandarino. Cioè io sono una persona che ha una sensibilità e una compassione per ogni individuo, essere umano o animale a quattro zampe, che necessita delle mie cure, della mia attenzione o di una mia aiuto. Ma non puoi negare che esistono altre situazioni. Ma guarda che sono molto poche. Cioè, se oggi c'è questa attenzione sugli animali è perché, grazie a Dio, ci si è accorti in che condizioni li si stava facendo vivere e di quanto li si stava sfruttando per un'economia, ma nemmeno per un bene della salute, perché ti assicuro che qui uno vuole essere animalista, ma se uno vuole non ammalarsi e sapere che cosa mangia, è bene che si informi, perché porta tutto alla stessa direzione, ad avere una consapevolezza, e grazie al cielo c'è proprio più consapevolezza. Poi ci sono gli estremisti e i pazzi che vengono a fare casino sotto la radio, che però, voglio dire, magari hanno dei metodi sbagliati, ma condivido il loro punto di vista. Quindi secondo te, Rosita, visto che siamo in conclusione, è in generale, come sempre, un cambiamento di sensibilità che attraversa tutta l'umanità, che ha delle sue punte estreme che possono sembrare folcloristiche, estremiste, che poi si arriverà a una stabilizzazione in cui l'uomo considera in maniera più attenta anche gli animali che ha intorno. È un discorso che ci può stare questo. Sentiamo Renzo, buongiorno Renzo. Buongiorno, io possiedo un gattino, lo curo tranquillamente, però sinceramente per una persona, ma fra il gattino e anche altri migliaia di gattini, cioè per me la persona è al primo posto, per cui non c'è nessuna, condivido pienamente quello che dice il Papa, ecco, solamente questo. Quindi lei è un moderato amante degli animali, dice, però dovendo scegliere esiste sempre una gerarchia, però mi sembra aver capito qualcosa in più stamattina, perché poi quando con le persone ci si parla in maniera serena si capisce anche qualcosa in più. Mi sembra, se dovessi io dare un riassunto a quello che ho capito questa mattina, sì, è vero, esistono delle forme parossistiche, paradossali, folcloristiche rispetto all'animalismo. È vero che esiste una sorta di quello che io sintetizzo, e qua mi prenderò gli strali, di anima gattara. Sono persone che hanno una profonda disillusione nei confronti dell'umanità, dicono gli animali sono meglio degli uomini, perché gli animali, è chiaro, ti danno delle reazioni molto dirette se tu li nutri, gli dimostri attenzione, l'animale ti è riconoscente. L'essere umano molte volte tu lo nutri, gli dimostri attenzione, gli dai amicizia, gli dai fedeltà e non ti risponde con altrettanta inequivocabile gratitudine. Questo naturalmente è un grosso problema, però sta cambiando qualcosa. L'umanità in generale sta considerando che anche gli animali hanno una loro funzione, e l'esercizio smodato della aggressività nei confronti degli animali potrebbe portare l'umanità anche a qualcosa di sbagliato. Detto questo, buona bistecca a chi mangia la bistecca e buona sformatino di verdura a chi è vegetariano. Per me la stessa cosa è pari sono. Alla prossima.